senza umiltà. Tutti bravi sì, ma sulla cumanna. Super uomini ingoiati dalla superficialità, occupati a curare le banalità della vita terrena, per una carriera di soldi facili e di galera. Asce muori fra i muri del paesino, qui no Ducati Monster, qui scooter cinquantino. F.U.B.O. non famoso, quindi io non oso. Se non sono noto non vuol dire non pericoloso. Estroso, se il ritmo della gente è festoso. Del sud se di nome mafioso, anche se non malavitoso. La vita mala, l'aria amara nel blocco maestoso. Io sono un albero, non noto che esco rigoglioso. Fai il bello, hai diamante che io è orgoglioso. Attento bro, prima noto proprio il più conoso. Levati dal cazzo coso, non mi compri col denaro. Anche se tanto è che il fubo è costoso. Corroso, acidoso, fumoso. Se noto come il vento che nel tempo ti ha eroso. La tua pagina MySpace non esiste a squadro socio. Io mi sono espanso, a me non basta spazio socio. Distingui il bravo, se Rolex orologio. Entri nel blocco fra, è rischioso. No che non mi va, farmela con gente senza umiltà. Tutti bravi sì, ma sulla cumanna. Super uomini ingoiati dalla superficialità, occupati a curare le banalità della vita terrena, per una carriera di soldi facili e di galera. Asce muori fra i muri del paesino, qui no Ducati Monster, qui scooter cinquantino. E faccio salti mortali per registrare sulle strumentali. Ringrazio Dio che non siamo tutti uguali. Se rispecchi il parere del pubblico vale. Alcune sono balle, opinioni come palle. Ognuno ha le sue, in cerca del true. In scienze umanistiche o amici laureati che non hanno mai preso lezioni da letterati. Perché ogni rima è presa tra sentimento e ragione. Precursori di una nuova fazione. Facciamo parte dell'opposizione, di un consiglio che non esiste. Quindi non ricopriamo una posizione. Spargo odio e dissenso, dico sempre quel che penso. Senza malessere nell'essere, ti opponi delle situazioni, ho varie visioni. Mi tocca lampeggiare in qualche eclissi. Voglio vederti sprofondare negli abissi. No che non mi va, farmela con gente senza umiltà. Tutti bravi sì, ma sulla cumanna. Super uomini ingoiati dalla superficialità, occupati a curare le banalità della vita terrena, per una carriera di soldi facili e di galera. Asce muori fra i muri del paesino, qui no Ducati Monster, qui scooter cinquantino. E no fra non mi fotti, anche se non sono noto bro. Sono small, ma B.I.C. come il notorio bro. Meglio indipendente, schiavo senza padrone. Se tu che vuoi fottere bimba, ma io sono il ladrone. No shit, no jeep, no monetine, no VIP. Sono il capo della street 2M, se sono su beat. Beat dopo beat, sempre fedele alla mia peak. Rima senza soldi, senza ascolti, non pazzo come Dawson Creek. Non me ne preoccupo se sto con i miei fratelli, perché niente fai da solo, se c'è soldi ma zero fratelli. Ricco da solo, nah, non fa per me. Preferisco morire di fame che da solo tanto cash. Zero dinero come i fratelli Righiera. Ma nella fiesta nel SR faccio vita vera. Come gli articolo, siamo gente che spera. Parlo di questo incazzato nero come Vieira. No che non mi va, farmela con gente senza umiltà. Tutti bravi sì, ma sulla cumanna. Super uomini ingoiati dalla superficialità, occupati a curare le banalità della vita terrena, per una carriera di soldi facili e di galera. Asce muori fra i muri del paesino, qui no Ducati Monster, qui scooter cinquantino. No che non mi va, farmela con gente senza umiltà.